Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Alle 17:06 minuti inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. Buon anno a tutti voi da Sebastiano Barisoni e subito i temi di questa giornata economico-finanziaria. Come già ricordava il nostro GR, siamo in diretta anche quest'anno, anche per questa edizione, da Firenze, dalla Fortezza d'Abasso, dove ha aperto ieri battenti l'edizione invernale di Pitti e Uomo. Ne parleremo perché stiamo parlando di un settore che solo per quello che riguarda la componente maschile vale in questo paese 8 miliardi e 600 milioni di fatturato e 5 miliardi di export, mentre complessivamente il nostro settore moda vale 51 miliardi, di cui più della metà, 26 miliardi, vengono esportati. Buoni numeri, anzi ottimi per quello che riguarda anche in questo caso i mercati esteri, non così buoni, per essere eufemistici, per quello che riguarda invece i consumi interni, ma con una grande capacità di tenuta per quello che riguarda poi i principali gruppi del settore tessile, abbigliamento e moda, che non è solo moda, significa mezzo milione di addetti che fanno anche e soprattutto industria tessile, non solo la moda nella parte più così glamour. E di questo ne parleremo in apertura. Poi ci occuperemo anche della borsa, che sta andando molto bene a Milano rispetto alle altre borse europee, dico molto bene perché guadagna il FTSE MIB l'1,22%, Parigi più 0,70%, Francoforte più 0,80%. Che cosa spinge Milano? Il nuovo calo dello spread, di cui parleremo adesso nelle notizie in breve, che o di cui beneficiano tutti i titoli bancari. La Popolare di Milano, in attesa anche della nuova governance, guadagna il 7,80%, il Banco Popolare il 5,1%, la Popolare Emilia Romagna il 5%, Mediobanca il 5%, Intesa San Paolo il 3,40%, come Unicredit, il Monte dei Paschi guadagna il 2%. Bene, anche Telecom Italia, resta forte l'attenzione del mercato sulla vicenda Telecom, sulla vicenda TIM Brasil. Il titolo guadagna il 4,22%, molto forte anche Rizzoli Corriere della Sera, dopo l'annuncio che il gruppo gestirà anche la raccolta pubblicitaria del gruppo La Stampa di Torino. E per quello che riguarda invece i titoli che oggi perdono, segnaliamo Unipolsai, dopo il forte rialzo di ieri fa un meno 6%. Oggi il settore del lusso, su cui gli investimenti si sono un po' allontanati, perlomeno da quello che vediamo, Tod's perde l'1,70%, Luxottica lo 0,50%, ma Salvatore Ferragamo guadagna lo 0,70%. Parleremo anche di privatizzazioni, perché sul Sole 24 Ore viene appunto fatto un riferimento all'ipotesi che vi sia un gruppo importantissimo in Cina, si chiama State Grid of China, interessato alle quote delle reti del gas Snam ed elettrica Terna, che dovrebbero essere cedute nel piano di privatizzazione del governo. E questo nel giorno in cui si dovrebbe, non dico decidere, ma dovrebbe esserci un ulteriore passo sul futuro di Alitalia. Oggi infatti era dato come possibile una riunione dei vertici della Italia a Palazzo Chigi. Da quello che abbiamo visto l'incontro non si è tenuto, però lunedì prossimo, il 13 gennaio, l'assemblea degli azionisti dell'Italia dovrà nominare il nuovo consiglio di amministrazione, che dovrà anche riflettere il nuovo assetto societario di Alitalia dopo l'aumento di capitale. Il primo azionista è Intesa San Paolo, poi le Poste Italiane, poi Unicredit e Atlantia. E quindi parleremo anche di questo, anche perché nei prossimi giorni potrebbe arrivare la mossa ufficiale della compagnia di Abu Dhabi, degli Emirati Arabi, Etihad, che punterebbe a diventare il primo azionista dell'Italia con il 49%, stando alle ipotesi, e quindi mettendo sul piatto fino a 350 milioni di euro. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Ovvio che oggi ci occuperemo anche della nuova TASI, il governo fa il punto oggi sulla nuova TASI, ma soprattutto, come segnala Sole 24 Ore, la necessità di prevedere detrazioni è legata anche a quella che si chiama una tendenziale regressività della TASI, ossia cosa succede? Che in proporzione finisce per penalizzare soprattutto i proprietari di abitazioni più piccole, quindi Paga e TASI. Allora, subito le notizie in breve. Partiamo dalla Cina, dove il governo ha annunciato che permetterà la nascita di banche totalmente private. Lo ha annunciato, per la precisione, l'ente che regola il sistema bancario cinese, il China Banking Regulatory Commission. Secondo l'annuncio, questo permetterà la nascita di 3, forse 5 banche private come esperimento iniziale, e poi il test potrebbe essere esteso anche con la possibilità di ingresso di capitali stranieri. E ancora, per quello che riguarda gli Stati Uniti, JP Morgan pagherà $1,700 milioni per risolvere la disputa. È accusata sostanzialmente di aver giocato un ruolo nel facilitare la maxi truffa, lo ricorderete, del numero uno dei truffatori di questa crisi, Bernard Madoff. JP Morgan si impegna anche a rivedere le pratiche antiriciclaggio. In Europa l'inflazione torna a scendere, a dicembre allo 0,8%, a novembre allo 0,9%. Tra l'altro, questa è un'inflazione un po' farlocca, nel senso che se andiamo a depurare il dato dal cibo, alcolici e tabacco, dove spesso, soprattutto su cibo, su alcolici e tabacco, si scaricano anche le accise, le tasse, beh, lì ce ne rendiamo conto, hanno fatto più 1,8%, che molti degli altri, delle altre voci che compongono l'inflazione sono o ferme o addirittura in calo. Mentre per quello che riguarda le notizie che riguardano sempre l'Europa, in questo caso specifico però l'Italia, è sceso a 198 punti lo spread italiano, quindi la differenza tra quanto costa a noi indebitarsi rispetto a quanto non costi la Germania su un debito a 10 anni, sul BTP a 10 anni, a 198 punti, mentre quello spagnolo è sceso a 189 punti, quindi un BTP a 10 anni italiano rende il 3,86%, un bonus spagnolo a 10 anni rende il 3,78%. E proprio questa mattina qui da Pitti Immagine, a margine dell'inaugurazione, a cui ha partecipato anche il segretario del PD Renzi, poi ascolteremo la sua dichiarazione sul Job Act, sul tema dello spread, diceva, è intervenuto l'amministratore delegato di Unicredit, Federico Ghizzoni, al microfono del nostro Stefano Totoro, augurandosi che questo calo dello spread continui nei prossimi giorni. Io mi auguro che lo spread non si fermi a 200, che comunque è ancora molto alto rispetto a quello che dovrebbe essere, quindi mi auguro che continui a scendere. Questo dovrebbe ulteriormente ridurre il costo della raccolta per le banche e di conseguenza i costi per il credito per le imprese. I tassi stanno cominciando a scendere. Mi auguro che continui questa strada, perché è un bene per le imprese e un bene che per le aziende. Se le imprese attingono il credito, per le banche è comunque positivo. Un credito fatto negli ultimi 15-18 mesi, 23 miliardi di credito nuovo, quindi noi stiamo cercando di fare il possibile. Quello che scade è superiore a quello che è stato erogato, perché sono crediti concessi nel periodo massimo pre-crisi, quindi nel 2007-2008, quando furono concessi credito per volumi imponenti. La banca sta facendo credito e le posso solo dire che per quanto riguarda i budget 2014, quindi quest'anno, le filiali hanno ricevuto obiettivi di crescita del credito, quindi vediamo se riusciamo a portarli a casa. Allora, vedo già alcuni messaggi al 349-238-6666, dice un ascoltatore: lo spread non ci dà da mangiare e non serve a creare posti di lavoro. Beh, insomma, è chiaro che non c'è un impatto diretto, però più lo Stato spende in interessi sul debito, meno soldi ha per altre iniziative, quindi a livello diretto non dà da mangiare lo spread, però a livello indiretto libera risorse per lo Stato, per il governo, magari per ridurre la pressione fiscale sui lavoratori, per esempio, tema rimasto del tutto inevaso dal governo e dall'ultima manovra finanziaria. E a proposito di politiche economiche, già accennavo al fatto di Matteo Renzi, segretario del PD, oggi qui all'inaugurazione del PT. Ha detto Renzi basta con la maledizione della bella addormentata nel bosco, riferendosi al nostro paese. A mio giudizio abbiamo sprecato la crisi, ora non dobbiamo sprecare la ripresa, è ora di guardare la luna, non il dito, riferito all'articolo 18, e ha annunciato che a giorni arriverà il Job Act, costruito su tre punti per lottare, e avrà come obiettivo una lotta contro la burocrazia e creare posti di lavoro in sei settori, di cui Made in Italy sarà il primo. Ascoltiamolo durante l'inaugurazione di PT Immagine questa mattina. Il Jobs Act non è soltanto, come è stato negli ultimi anni, la discussione sull'articolo 18, su cui ciascuno ha le proprie idee, ma che è la dimostrazione plastica di guardare il dito mentre il mondo chiede di guardare la luna. Il problema del creare lavoro non è semplicemente ridurre la discussione politica a una normativa contrattuale, ma provare a allargare il ragionamento. Allora, nelle prossime ore, esprimeremo un documento che abbia tre punti di riferimento. Perché non puoi parlare di creare lavoro, parlo del sistema manifatturiero tradizionale, se continui ad avere un costo dell'energia che è il 30% più alto di quello dei paesi concorrenti. Perché se 20 anni fa, o 15 anni fa, o 10 anni fa, la globalizzazione portava le aziende a delocalizzare in Vietnam o in Cina, oggi delocalizzano in Austria, dove il costo dell'energia o il costo della burocrazia è più basso che da noi, o in Germania. Ed è un paradosso, perché una cosa è delocalizzare per il costo del lavoro, altro è delocalizzare perché il sistema paese non ti aiuta. E allora c'è una triplice iniziativa sul tema del lavoro, le regole di insieme, vale a dire il panorama sistemico che parta dalle condizioni per chi fa impresa di poter essere messo in condizione di farlo, i settori, i sei settori in cui riuscire a creare posti di lavoro, e il Made in Italy, lo dico qui non a caso, sarà il primo di questi sei, ma c'è anche la manifattura tradizionale, c'è anche tutto il tema dell'industria turistica e culturale, c'è il grande tema dell'innovazione, dell'ICT come occasione per creare ricchezza e posti di lavoro, e contemporaneamente soltanto alla fine una discussione sulle regole contrattuali, che sia una discussione non ideologica e che vada a cercare di dare garanzie a chi garanzie in questi anni non le ha avute. Così appunto Matteo Renzi. Se posso permettermi un modestissimo consiglio a Matteo Renzi, benissimo quello che abbiamo ascoltato, vedremo poi che traduzione concreta avrà, ma perché chiamarlo Job Act, questa mania di inseguire gli inglesismi? Noi non abbiamo nel nostro sistema legislativo l'ACT all'inglese o all'americana, no? Ma chiamiamola riforma del mercato del lavoro, l'italiano è una lingua bellissima, Job Act, vorrei capire quanti lo capiscono. Boh, per carità, ma insomma, ogni tanto anche il titolo serve per i contenuti. Parleremo dopo invece degli sprechi, non ci siamo dimenticati nel 2014 del nostro appuntamento, ahimè quasi quotidiano, sugli sprechi della pubblica amministrazione italiana, però visto che siamo qui a Pitti vorrei partire subito con il primo tema, e quindi ringrazio il presidente di Pitti Immagine, nostro ospite, Gaetano Marzotto, buonasera. Buonasera a voi. E con l'amministratore delegato di Pitti Immagine, Raffaello Napoleone, buonasera anche a lei, dottor Napoleone. Dunque, i numeri del settore moda tessile sono numeri impressionanti, poi parleremo anche di numeri di Pitti, e anche quest'anno, l'anno che si è appena chiuso per essere più precisi, si conferma una tendenza che vediamo in tutto il settore, ahimè, o quasi tutto il settore industriale di questo paese, cioè calo continuativo dei consumi interni, meno 7,2% gli acquisti, e anche in Europa, mentre la parte che tira, ma non tira abbastanza da compensare il calo del mercato interno, è la parte dei paesi emergenti: Cina più 26%, Hong Kong più 15%, Corea del Sud più 34%, Bangladesh più 11%. Frena, dicevo, il vecchio mondo, come lo chiamano in gergo, non solo l'Europa, ma anche gli Stati Uniti più 0,9% e Russia più 0,2%. Per quello che riguarda l'industria della moda maschile italiana, industria che vale il comparto moda uomo 8 miliardi e 600 milioni di esportazioni, ha fatto un più 1% comunque l'anno scorso, l'export ha recuperato completamente i livelli pre-crisi, siamo ormai a 5 miliardi 242 milioni, è un più 4% quasi, più 3,8 rispetto all'anno prima, rispetto al 2012, mentre, tra virgolette, per fortuna le importazioni calano a 3,3 miliardi, è un calo di circa il 5%, il che vuol dire che la bilancia commerciale del comparto moda uomo italiano, di questo si parla Pitti Immagine Uomo, è positiva e a vantaggio delle nostre esportazioni per 1 miliardo e 800 milioni. Restiamo, poi arriviamo ai numeri di Pitti sul settore moda italiano, perché Marzotto, nonostante gli ottimi dati sulle esportazioni, quello che risulta chiaro è ancora la frenata dei consumi interni, questo meno 7%. Quanta parte riesce a essere in qualche modo, non dico completamente compensata, ma parzialmente compensata dalle esportazioni? E dove vedete le tendenze più interessanti in questo momento, sempre riferito al settore moda maschile? Dunque, noi storicamente vendiamo molto bene in Francia, in Germania e nel nord Europa, sono i nostri partner più importanti. Abbiamo visto una forte ripresa già nell'Inghilterra, e poi in tutti i paesi dove c'è una forte buona amministrazione pubblica, barra, quindi parlo della Germania, parlo in parte anche del nord Europa, quindi la Scandinavia, e dove c'è una forte componente di turismo, soprattutto dei nuovi paesi in via di sviluppo, quindi sicuramente tanti cinesi sono venuti a comprare in Europa, nelle grandi città, ma anche nelle medie città italiane, quindi parlo di città che però hanno una forte componente turistica, che hanno beneficiato di questi nuovi paesi, di questi nuovi consumatori. Sicuramente c'è una grande potenzialità adesso nel centro Sud America, quindi ci sono paesi emergenti come il Messico, come il Brasile, i MINT cosiddetti, sì, ormai. E, Messico, e ci sono grandi possibilità nei paesi come la Malesia, come l'Indonesia, che stanno emergendo, senza considerare le tigri asiatiche di cui avete riferito i dati di grande sviluppo. Quello che cercano dall'Italia è un'eleganza accessibile, c'è 1 miliardo di nuovi consumatori che stanno emergendo e hanno redditi simili europei e che cercano un prodotto di qualità, un prodotto intelligente, giusto per tutti i giorni, quindi non solo l'alta moda, il lavoro degli stilisti di altissimo livello, ma cercano anche quello che qui a Pitti in tanti anni abbiamo selezionato, abbiamo più di 1100 marchi che veramente presentano una sezione in 10 sezioni, una panoramica di quello che è veramente l'eleganza italiana, ripeto, accessibile, nel senso che anche come prezzo, la gente normale può comprare. Ecco, io citavo i numeri del comparto moda uomo, 8 miliardi e 6 fatturato. In realtà, se prendiamo tutto il settore tessile italiano, siamo a 51 miliardi di fatturato. Praticamente noi da soli facciamo il 30% di tutto il fatturato europeo nel settore tessile. Pensate che delle 50.000 aziende che o come fornitrici o subfornitrici in filiera lavorano nel settore tessile, moda, abbigliamento, praticamente rappresentano un quarto, il 25% di tutte le aziende europee. Quindi un'azienda su 4 che si occupa di tessile, abbigliamento e moda in Europa è italiana, che vuol dire 500.000 di addetti, perché poi stiamo parlando di queste cose in un momento difficile anche per l'occupazione. Marzotto, la concorrenza più agguerrita dove arriva? Noi sappiamo che in questi anni il sistema italiano è riuscito a muoversi in alto, cioè a non essere più completamente in concorrenza con Cina e India, a spostarsi nella parte del valore aggiunto più alto della filiera e anche dei segmenti. Però la concorrenza è sempre dietro l'angolo, sappiamo che la Cina non si limita più a fare da fornitore o subfornitore o le catene classiche, H&M e Zara hanno avviato anche altre linee che vanno in concorrenza diretta sull'Italia. Ecco, da dov'è che vedete i maggiori problemi e rischi? Ma io vedo rischi, ma vedo anche opportunità, nel senso che negli ultimi anni il consumatore è sempre più volubile e quindi tende a acquistare sempre più all'ultimo momento, e questa è una grande opportunità per il sistema Moda Italia, che è integrato, perché la risposta è molto più veloce, sia dal punto di vista della rapidità nelle consegne che della qualità nelle consegne, che è sempre più importante. Quindi via via che i consumatori diventano più sensibili alla qualità, allo stile, eccetera, via via c'è più opportunità per il sistema Moda Italia, che è ancora, come giustamente dicevi, integrato, nel senso che abbiamo filati, tessuti, abbigliamento. Il grande salto di qualità che dobbiamo fare è di arrivare alla distribuzione, perché il nostro vero competitor sono le catene integrate che hanno la distribuzione, che quindi sanno che cosa vuole il consumatore finale in tempo reale. Questi sono estremamente bravi, estremamente capaci, e saltano tutti, ossia saltano tutti e arrivano direttamente al consumatore finale. E devo dire che il tema della distribuzione, cioè di chi poi va a distribuire con catene di dimensioni grosse, perché questi mercati richiedono purtroppo numeri grossi, purtroppo per fortuna, è un tema che abbiamo già visto quando ci occupiamo per esempio del settore agroalimentare. Siamo molto bravi nella produzione, nella qualità, poi ci mancano le catene di distribuzione. Nel caso dell'agroalimentare ci mancano le grandi catene della distribuzione organizzata. Nel caso della moda probabilmente soffriamo anche lì sulla capacità di avere un network di distributori, e anche perché ho visto che in Cina per esempio piace molto l'idea dei multi-brand forniti da un unico distributore. Tutto questo però poi riesce ad avere una sua visibilità, Napoleone, grazie a un evento come quello di Pitti, per quello che riguarda il settore chiaramente abbigliamento, il comparto moda e uomo. Voi avete, lo ricordava prima Gaetano Manazzotto, oltre 1100 marchi presenti da 30 paesi, sono 400 quelli che arrivano da 30 paesi all'estero, e la scorso anno, perché parliamo di Pitti inverno come lo chiamo io, avete avuto 30.000 visitatori che sono poi B2B, buyers soprattutto. Qual è lo sforzo che voi state compiendo proprio per riuscire a non finire in un cono d'ombra? Mi riferisco per esempio a Londra. Londra ha fatto un'operazione così, un po' all'italiana, cioè ha anticipato la settimana della moda andando in concorrenza diretta con Pitti. La London Fashion Week inizia in questi giorni. Il governo lì ha stanziato 2 milioni questa mattina, abbiamo ascoltato anche la voce di Matteo Renzi su altro prima, ma avete avuto parole di encomio per il sottosegretario Calenda per l'appoggio che vi ha dato. A cosa vi serviranno questi 2 milioni e come riuscirete a non, diciamo, a smarcarvi da questa mossa londinese? Beh, la mossa londinese in vero nasce con la creazione di una nuova Fashion Week, è alla sua quarta edizione. Trovo che sia positivo per l'Europa che ci siano 4 appuntamenti legati all'uomo, vuol dire che l'Europa rimane leader da questo punto di vista. Non condividiamo l'ineleganza con la quale queste date poco sono British state scelte, soprattutto nel mese di gennaio, molto poco British, molto scorretta. Detto questo, le nostre reazioni sono tendenzialmente rafforzare un procedimento e un processo che è in corso da anni, cioè quello della selezione, dell'internazionalizzazione e soprattutto del mercato. L'operazione di Londra è un'operazione soprattutto legata a sfilata e a presentazioni in date molto difficili per le aziende, in particolare per i giovani, per poter lanciare nuove stagioni. Da un altro punto di vista, evidentemente l'operazione del governo è un'operazione che per la prima volta viene fatta nel nostro paese, viene fatta qui a Firenze perché sono i 60 anni dalla nascita del Centro di Firenze Moda Italiana, che è l'organizzazione che ha supportato e in qualche modo promosso la nascita della moda stessa, e a questo punto ci siamo resi conto che era la buona occasione per mettere insieme le energie, le intelligenze, le capacità di un sistema che, come abbiamo visto prima, rimane molto forte di riferimento, in particolare nell'uomo. Il settore dell'uomo non è più un territorio, come dire, presidiato esclusivamente dall'Italia, lo dimostra Londra, ma lo dimostra Parigi e lo dimostra la nascita di decine di Fashion Week dove l'uomo gioca un ruolo in tutto il mondo. Quindi noi dobbiamo essere più creativi come siamo stati, più qualitativi, e quando parlo di noi parlo del sistema paese. L'Italia in questo momento ha grandi opportunità ma anche grandi rischi se non sa rispondere a una vera competizione, che non c'è mai stata fino ad oggi, di sistemi paese e di sistemi città. Non si parla più di un'organizzazione Pitti Immagine più che la Camera Nazionale della Moda a Milano, si parla di sistemi economici legati a delle realtà industriali di singole nazioni che si confrontano. Allora, quindi, ma lì questi la 2 milioni cosa vi serviranno? Perché il governo ha stanziato 2 milioni che userete a giugno quando ci sarà Pitti Uomo, sì, come esatto, lo chiamo io, estate. Che ne farete di questi 2 milioni? Questi 2 milioni sono stati diciamo distribuiti su una serie di iniziative che vanno dal primo progetto più visibile, che è una grande presentazione dei 5 stilisti born in Florence, quindi Salvatore Ferragamo, Gucci, Emilio Pucci, Roberto Cavalli e Ermanno Cervino, che giocano un ruolo di riferimento nella nostra moda, quindi con delle presentazioni specifiche. Una grande serata su un altro elemento importante del nostro paese, che è la musica, nel nuovo auditorium di Firenze, e questa sarà il giorno prima dell'apertura. Un'iniziativa molto originale, che vuole mettere in valore la comunità internazionale e nazionale che gravita intorno al PT Immagine Uomo, quello che noi definiamo il PT People. Qui a Firenze non sono solo gli espositori che si rappresentano, sono anche le comunità di tutti i distributori del mondo che si riuniscono per 4 giorni. In pratica è una specie di fashion show che dura tutta la giornata e la sera, con tutti i vari eventi lo metteremo in valore, le capacità manuali del nostro paese, con una specie di documentario fiction, quasi un corto, che valorizza queste capacità e la possibilità poi di mettere in circuiti internazionali televisivi, negli aerei, nei treni, ovunque sia possibile. I giovani designer, ne stiamo lavorando, il progetto si chiama PT Italics e su questo lavoreremo, come abbiamo già fatto in passato, con più impegno. La scuola napoletana non può essere dimenticata, la moda italiana ha avuto molto nell'uomo da Napoli e faremo un grande progetto anche su Napoli. Il design e l'automobile, che in quegli anni, quando è nata la moda, ha marcato l'industria italiana. Un premio alla grande distribuzione italiana internazionale che sta cambiando, un'inaugurazione specifica, una nuova illuminazione del Ponte Vecchio, e poi grandi piani di ospitalità, quindi incoming sia per i compratori che per la stampa, oltre che a un progetto importante di promozione, se vogliamo anche pubblicitaria, di questa iniziativa, che è non solo a supporto del Pitti o di Firenze o del distretto produttivo toscano, è a supporto dell'Italia, delle sue unicità e della sua leadership. Perché da Firenze? Perché qui è nata la moda italiana e perché qui credo che si possa partire in un buon rapporto di imbastitura, di migliori relazioni fra i promotori della moda italiana. Imbastitura è il termine corretto, visto che parliamo anche di moda. Mi dico una cosa però, qui c'è un tema di infrastrutture. Voi avete oggi, questa mattina, ricordavo, ringraziato sia il presidente Mazzotto che lei come ministro delegato, il ruolo che ha svolto il governo, il sottosegretario Calenda, è giusto ricordarlo quando abbiamo dati positivi, però qualche problema infrastrutturale c'è. Adesso noi ci stiamo molto occupando dell'Expo, perché sarà il grande appuntamento del 2015, ma insomma l'aeroporto di Firenze forse qualche problema ancora ve lo dà. Che cosa chiedete alla regione e anche al piano nazionale dei trasporti? Perché non possiamo, diciamo, l'offerta alberghiera, grazie a quella, alla vocazione turistica, artistica di Firenze, non è un grosso problema per voi. Dov'è che ci sono i colli di bottiglia? I colli di bottiglia sono sicuramente su uno dei temi essenziali delle attività che noi facciamo, che è la raggiungibilità. Si vince sui mercati internazionali se si è raggiunti facilmente. L'aeroporto di Firenze è una chicca, però è una chicca concepita all'inizio del Novecento, quindi con una pista un po' corta, in più il Monte Morello davanti, e la necessità, visto che c'è grande domanda, di adeguarsi a quelle che sono le necessità di questo periodo. Il piano di sviluppo dell'aeroporto è in fase di approvazione definitiva, lo sarà entro il mese di marzo, dopo una battaglia ventennale tra Firenze e Pisa. L'abbiamo sentito anche oggi all'inaugurazione. Ci vorranno degli anni perché questa cosa si completi nella sua diciamo attesa realizzazione, però questa è la prima cosa su cui noi riteniamo, e non tanto solo per le fiere e i congressi, ma per la città, per gli investimenti in città e soprattutto per la qualità dei servizi che devono essere forniti da questo punto di vista. E poi evidentemente la fortezza da basso, che io definisco una Ferrari GTO, che voi, come sapete, è una delle macchine che vale di più sul mercato internazionale delle macchine d'epoca, sui cavalletti oggi, quindi comunque in buono stato, relativamente buono stato, che tocca ogni tanto per terra e va a 300 all'ora. C'è bisogno di adeguare la fortezza agli standard qualitativi internazionali. La fortezza da basso, che a Firenze non è un asset solo per Firenze e per la Toscana, è una delle grandi opportunità promozionali per il nostro paese, perché è in centro città, perché è comunque un monumento importante del San Gallo e perché è uno spazio magico, e gli spazi magici aggiungono valore a chi rappresenta qui all'interno le proprie produzioni e i propri valori. Sì, indubbiamente la fortezza da basso un po' di manutenzione e miglioria, di un po' di manutenzione e migliorie avrebbe bisogno. No, sorridevo sull'aeroporto di Firenze perché io mi sono laureato a Firenze più di 20 anni fa e già c'erano colleghi che facevano le tesi sull'allungamento della pista dell'aeroporto di Firenze. Sono passati 20 anni, stiamo ancora aspettando l'allungamento della pista dell'aeroporto di Firenze. Che tanti non è... esempi di questo genere ci sono nel nostro paese. Sì, purtroppo. Dovremmo sì. essere uniti a Sicilia ormai da non so da quanto tempo. No, no, ma baldato giusto che sia. Ma lasciamo stare punto sullo stretto, per favore, su cui ho un'opinione più che critica. No, ma parlavo di allungare una pista più di 20 anni. Avessimo fatto 10 benissimo. Metri all'anno, a questo punto eravamo già pronti. Comunque, per chiudere, Gaetano Marzotto, vorrei tornare sul tema della distribuzione, quindi tornare sul tema dell'industria della moda italiana. Che cosa si può fare? Perché i grandi distributori, poi, ripeto, come nell'agroalimentare, anche nella moda, determinano quello che c'è nello scaffale. E tu puoi produrre bene, ma se non arrivi sullo scaffale, la tua produzione te la tieni in casa. Allora, su questo noi siamo da sempre carenti. Ci mancano i grandi gruppi. C'è la possibilità di almeno procedere per aggregazioni, non so, anche nel settore della distribuzione, cioè trovare dei marchi che si mettono assieme e gestiscono la distribuzione sui mercati stranieri assieme, poi magari si fanno concorrenza in Italia come e più di prima? Certamente, un esempio è già quello che come Pitti abbiamo fatto con Isetan, nel senso che abbiamo fatto una selezione di marchi sia nel classico aggiornato che nello sportswear ed è sono 190 marchi e Isetan è uno dei più grandi gruppi giapponesi e ha avuto un successo incredibile. Cioè, avete fatto un accordo con questo gruppo sì, giapponese? Esatto. Che praticamente va a distribuire i nostri marchi. Esatto, e due volte l'anno presenta questa Pitti Selection a tutti i propri clienti. Isetan, solo il negozio in centro a Tokyo, attrae più di 100.000 visitatori ogni giorno. Quindi è un colosso al straordinario. Giorno. Sì, sì, 100.000. Sì. Noi avremo tutto l'interesse durante giugno, ogni Pitti avviene, ma soprattutto quest'anno in giugno, che sarà uno dei primi grandi eventi speciali, che speriamo di farne tanti altri, di avere qui tutti i grandi landlord, tutti quanti i grandi distributori internazionali e presentarli le sezioni di Pitti e quelli che sono i marchi che hanno più possibilità di avere un successo internazionale. Questo è quello che vorremmo fare. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni qui dall'edizione annuale che praticamente andrà avanti fino al 10 di gennaio alla Fortezza Basso di Firenze, 85esima edizione di Pitti Uomo. Per parlare adesso però di borsa che ha chiuso bene, più 1,22%, tra le migliori devo dire in Europa, soprattutto come effetto dello spread ulteriormente in calo. E che di cui hanno beneficiato chiaramente tutti i titoli bancari: Banco Popolare più 5,60, Popolare Emilia Romagna più 5,40, Mediobanca più 5,30, Unicredit più 3,5, Intesa San Paolo più 3,30, Monte dei Paschi più 2,80, Azimut più 2,30 come Mediolanum. Bene però anche Telecom Italia più 4,16% e Mediaset più 5,60%. Il miglior titolo tra quelle maggiore capitalizzazione però è un bancario che ho volutamente tenuto per ultimo, la Popolare di Milano più 8%. E partiamo da qui con Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore. Buonasera Andrea. Buonasera Sebastiano. E buon anno a questo punto. No, non è una sorpresa, buon anno, era un modo per farsi gli auguri. Popolare di Milano più 8%, qui c'è il tema della governance, c'è attesa sulla nuova governance della banca. Sì, certamente oggi c'era il primo consiglio di sorveglianza guidato da Giarda e probabilmente la prossima settimana dovrebbe arrivare la nomina del nuovo consiglio di gestione, quindi il braccio operativo della banca. L'attenzione è su chi sarà il presidente, ma soprattutto su chi sarà il nuovo amministratore delegato, nuovo consigliere delegato. Tutti fanno il nome di Giuseppe Castagna, ex Intesa San Paolo, ma in generale se la BPM ha realizzato una performance di più 8%, tutte le banche oggi sono andate molto bene, a iniziare dalle banche popolari. Tutte sono andate bene. Tutte sono andate bene, Andrea, è vero, però e quindi diciamo scontiamo un 4, 5, 3% di rialzo, che è la media del settore oggi in borsa grazie allo spread. Ma perché si scommette così tanto, si compra così tanto Popolare Milano sulla base di un nuovo amministratore delegato? Beh, innanzitutto chiaramente sicuramente per il momento si escludono quelle che sono scenari di integrazione da una parte o dall'altra del mondo delle popolari, visto che uno dei cavalli di battaglia di Giarda nell'elezione del nuovo Consiglio di Sorveglianza fu appunto l'indipendenza della popolare di Milano. Però chiaramente una riscoperta delle banche sulla scia dello spread porta dello spread in ribasso, porta un'attenzione in particolare anche per quelle banche che hanno movimenti in azionariato in arrivo, visto che Banco Popolare di Milano sarà una di quelle che dovrà mettere mano a un aumento di capitale importante nel corso del 2014, quindi possibili nuovi ingressi di azionisti e possibili nuove strategie con l'arrivo di una nuova guida operativa come probabilmente Castagna o chi per lui sarà tra pochi giorni. Ecco, andamento diametralmente opposto invece per Unipol Sai, che molto era cresciuta ieri, meno 6% oggi. Sì, innanzitutto va ricordato che Unipol Sai prende l'eredità di quello che è il titolo fondiario Sai sul FTSE MIB, che era stato il secondo miglior titolo del 2013, quindi un aggiustamento che ci sta. Oggi un'importante intervista dell'amministratore delegato Carlo Cimbri proprio sul Sole 24 Ore ha ribadito innanzitutto un 2013 superiore all'attese per quanto riguarda il risultato operativo. L'incertezza e l'attenzione del mercato adesso è su questa offerta che il gruppo belga Ageas potrebbe formalizzare, potrebbe portare alla conclusione di una lunga trattativa per la vendita degli asset che il gruppo deve vendere per soddisfare l'indicazione dell'antitrust, possibilmente entro la metà di gennaio. Quindi l'incertezza ha portato a una serie di realizzi oggi con importanti volumi, scambi superiori al 2% del capitale, ma chiaramente in questo momento c'è ancora una visione positiva. Anche le parole di Cimbri hanno alimentato questa visione positiva che il mercato ha condiviso su Unipol Sai. Telecom Italia, dicevamo più 4,16 e Mediaset più 5,60. Su Telecom c'è ancora la questione Team Brasil, ma citiamo anche Mediaset. Per quanto riguarda Telecom, sì, innanzitutto una buona giornata dei telefonici in tutta Europa, certamente non ai livelli di Telecom, più 4%, l'attenzione è su Team Brasil. Gli analisti hanno giudicato positivamente anche questa apertura dell'azionista di riferimento Telco alla richiesta dei consiglieri indipendenti di utilizzare un regolamento, una governance più ristretta per quanto riguarda la valutazione delle parti correlate. Quindi può darsi che l'operazione Team Brasil finisca innanzitutto sul tavolo dei consiglieri indipendenti, quindi è chiaro che da questo punto di vista il mercato si aspetta una valutazione strettamente in funzione degli interessi di Telecom e quindi una valutazione soprattutto sull'aspetto economico molto importante di un asset strategico come quello del Brasile. Per quanto riguarda Mediaset, oggi è ripresa a salire in una giornata molto positiva per tutto il settore editoriale, più 5-7% Mediaset, che nell'ultimo anno, nell'orizzonte di 12 mesi, ha guadagnato il 104%, ma bene tutta l'editoria, anche Mondadori, anche il gruppo L'Espresso e anche RCS Media Group, anzi è stato tra i migliori, ha guadagnato quasi l'8% dopo che ha raggiunto un accordo con il quotidiano La Stampa per cui raccoglierà la pubblicità sul cartaceo a livello nazionale per quanto riguarda appunto il quotidiano cartaceo e anche per quanto riguarda il sito internet lastampa.it. A 7:49 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, diciamo, Andrea Fontana, ancora due titoli. Fiat, molti ascoltatori giustamente e come immaginabile chiedono di Fiat previsioni sul titolo. Non facciamo mai previsioni sui titoli da quando esiste questa radio, perché insomma le lasciamo ad altri. Detto ciò, Fiat anche oggi fa notizia, meno 1,70%. E poi il peggior titolo, per la precisione, a 6,8 euro per azione. E poi il peggior titolo di oggi, Fiera Milano, meno 6,54%. Andrea. Beh, la correzione di Fiat diciamo che ci sta dopo l'annuncio dell'operazione Chrysler, una correzione che ha iniziato a portare gli analisti e il mercato in generale a riflettere su quelle che saranno i prossimi appuntamenti, appunto l'integrazione con Chrysler. C'è chi parla anche di un possibile convertendo, per il quale si parla di una cifra di 2 miliardi che accompagni appunto la riduzione dell'indebitamento del gruppo, e quindi chiaramente questo fa un po' diciamo ragionare non il mercato, piace tantissimo, esatto, sì. Fa ragionare il mercato e fa alleggerire un po' le posizioni su Fiat, peraltro che viene da una settimana dove il bilancio, il saldo di borsa è di più 14%. Per quello che riguarda Fiera Milano, tu ricordavi il peggior titolo del Futsal Share oggi, meno 6,5%, era un titolo che aveva galoppato moltissimo nelle ultime settimane, sono arrivate da poco nuovi vertici, c'è un'attenzione particolare che è nella direzione dell'Expo, è un titolo che però è salito in maniera forse anche inspiegabile nelle ultime settimane, quindi oggi un alleggerimento del 6,5% ci sta, anche perché aveva ben superato gli 8 euro che erano i valori massimi degli ultimi 5 anni. Grazie Andrea Fontana, Radio Cori sulle 24 ore, il miglior titolo in assoluto Premuda più 19%, poi Invest più 16,20% e Casa Damiani più 13%, Biancamano più 11% e poi abbiamo detto della Pop Milano e di RCS, Gruppo Rizzoli Corriere della Sera. Restiamo in tema di finanza, ma in questo caso pubblica, e cioè da dove dovrebbero arrivare tra i 10 e i 12 miliardi di euro che il Premier Enrico Letta si attende dagli incassi delle privatizzazioni, perché oggi sulle 24 ore ha un'anticipazione proprio sul tema di chi potrebbe comprare quote di Snam, Rete Gas e di Terna. Si chiama State Grid of China, è un gruppo cinese, ha comprato già l'anno scorso, meglio nel 2012, il 25% della REN, la società che gestisce la rete elettrica in Portogallo, la Terna portoghese, è interessato a espandersi in Europa ed è il gestore della piccolissima rete elettrica cinese, la Terna cinese. Però affrontiamo il tema delle privatizzazioni anche per sapere cosa sta capitando dall'Italia, e quindi il nome uno ed uno solo, Gianni Dragoni, buonasera e buon anno. Buonasera, innanzitutto. Buon anno. Allora, perché e quanto diciamo fondato è questo interesse di State Grid of China, e poi arriviamo anche all'Italia? La parziale dismissione, perché si parla di privatizzazioni, ma in realtà certo, il controllo rimarrebbe sempre nelle mani pubbliche, anche con una quota più piccola, più sottile, e l'operazione che è già partita, almeno nella procedura, tra quelle annunciate un mese e mezzo fa dal Premier Letta, è quella di vedere se ci sono degli interessati, però si parla di manifestazione di interesse alla rete sia elettrica Terna, sia alla rete del gas Snam, che dovrebbero essere in parte le loro quote cedute attraverso una società, una scatola cinese in pratica, che è stata messa sopra la CDP Reti, perché sopra poi c'è la CDP, la Cassa Depositi e Prestiti Madre, che è del Tesoro. Allora, in questa procedura che è partita si parla di investimenti di fondi soprattutto cosiddetti infrastrutturali, quindi che investono nel settore delle infrastrutture. Erano circolati alcuni nomi, ma ieri è emerso che c'è effettivamente, oggi non ci sono state reazioni, ma un interesse di questo gruppo cinese che ha delle mire espansionistiche in Europa, è una società piuttosto grande e produce anche energia elettrica, quindi ha il doppio, sia produttore sia diciamo trasportatore di energia. Questo è il modello che invece è stato diviso in Italia, quindi secondo alcuni questo tipo di struttura potrebbe essere un ostacolo, però questo lo dovrà valutare il venditore, il governo, se riterrà che invece questo interesse è positivo per incassare una parte dei proventi delle dismissioni. Quindi siamo ancora alle battute preliminari, ma l'operazione è già avviata, è la prima e l'unica per ora che è già avviata. Ecco, in 3 minuti che ci restano, c'è un altro soggetto straniero che interessa molto l'Italia in questo momento, si chiama Etihad, è la compagnia di bandiera di Abu Dhabi, è un colosso assieme a Emirates, e punterebbe a diventare il primo azionista dell'Italia con il 49%, sborsando fino a 350 milioni di euro. Vorrei sapere se si sta arrivando a un po' più di concretezza su questa ipotesi, anche perché oggi si sarebbe dovuto tenere un incontro tra il governo e i vertici di Alitalia, che a quanto ci risulta invece è saltato. Però lunedì prossimo invece l'assemblea di Alitalia dovrà nominare il nuovo consiglio di amministrazione. Gianni. Allora, i colloqui con Etihad, stando alle informazioni che arrivano dagli azionisti dell'Alitalia e della stessa compagnia, proseguono. Etihad non fa commenti, non ha reagito, non ha fatto smentite. È da prima, dalla metà di dicembre, che veniva, diciamo, delle voci impetuose, come se qualcosa di imminente stesse per avvenire. Questo finora non è avvenuto. I tempi sembrano, anzi sono sicuramente più lunghi di come apparivano, però i contatti proseguono e la compagnia Etihad deve valutare, forse entro la fine del mese. Potrebbe essere una data di riferimento per un passo avanti, per degli annunci, secondo quello che ho raccolto. Siccome una compagnia extraeuropea non potrebbe avere più della metà del capitale di Alitalia, perché altrimenti l'Alitalia perderebbe lo status di soggetto comunitario e quindi i diritti per volare in tutta la comunità europea e anche all'interno dell'Italia, quindi il massimo in queste date le condizioni è la somma che ha indicato, cioè 300-350 milioni. Non è detto ancora che questa operazione si possa perfezionare, quindi c'è ancora incertezza. Devo dire che i tempi comunque sono più lunghi di quelli che apparivano, per cui comunque adesso partirà il nuovo consiglio di amministrazione, che poi sarà molto simile, solo soprattutto ridotto. Oggi sono 19 consiglieri, dovrebbero dimezzarsi, forse essere 11 quelli eletti lunedì. E quindi da lì poi anche però con una nuova composizione, perché dentro, lo ricordiamo, c'è anche come secondo azionista, ci sono anche le Poste italiane. Grazie per ora a Gianni Dragoni del Sole 24 Ore. Adesso c'è il GR, poi però non ci siamo dimenticati dell'appuntamento, ripeto, quasi quotidiano con gli sprechi della pubblica amministrazione, cioè per esempio scoprire perché la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha speso l'anno scorso 20.000 euro per la fornitura di acqua minerale, oppure perché la Regione Sicilia ha rimborsato 20 milioni di euro ai 15.000 addetti dell'azienda forestale regionale solo per le spese di trasferta, e poi anche il bilancio del Comune di Roma, il tutto mentre le famiglie italiane iniziano a fare i conti su quella che sarà la paga ETASI, come l'abbiamo chiamata noi, che tende a colpire di più le famiglie con abitazioni più piccole. Minuti, riprende Focus Economia in diretta da Pitti qui da Firenze, e come capite dalla base che abbiamo usato prima di arrivare alla TASI, paga e TASI, che dovranno pagare gli italiani, che tra l'altro, come scopre oggi Sole 24 Ore, tende ad avere una piccola caratteristica non bellissima, ossia una tendenziale regressività, il che vuol dire, tradotto in italiano, che in proporzione finisce per penalizzare soprattutto i proprietari di abitazioni più piccole. Ma mentre le famiglie italiane iniziano i calcoli sulla TASI, c'è qualcuno che invece di pagare o di risparmiare e tacere non ne vuole sapere. Allora, ieri alla Befana facciamo una letterina in ritardo a Carlo Cottarelli, il commissario per la Spending Review, perché fra 2 mesi dovrà presentare il piano di riduzione selettiva delle spese, deve trovare 32 miliardi di euro di risparmi. Noi stiamo cercando in questo anno e mezzo di dargli qualche consiglio, per esempio i costi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al di là delle sovrapposizioni, per cui faccio un esempio, c'è il Ministero della Coesione Regionale e quello degli Affari Regionali, che dipendono entrambi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, esercitano le medesime funzioni, quindi, come si dice in questi casi, uno dei due è di troppo. Ma vale anche per le politiche antidroga affidate al Ministero della Salute, ma per cui Palazzo Chigi spende comunque autonomamente 6 milioni di euro per le politiche antidroga. Ci sono dei capitoli, delle voci di spesa non ingentissimi, per carità, però obiettivamente inspiegabili se non inaccettabili. Per esempio, perché la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha speso 1.300 euro l'anno scorso per spostare 5 fotocopiatrici e quasi 800 euro per sostituire un doppio vetro, ma anche perché ha speso 20.000 euro per la fornitura di acqua minerale, 4.000 euro per la fornitura di caffè, 2.000 euro per saponi delle lavastoviglie, 6.200 euro per la fornitura di scatole con coperchio, e capirai, è il coperchio che costa, 2.000 euro per noleggio lenzuola, 25.000 euro per il lavaggio delle tende e anche di ulteriori tendaggi, presenti anche 4.300 euro versati all'Allegio 13 American Football per realizzare il progetto Latin American Stars and Stripes. Ma che cosa vuol dire non lo riusciamo a capire. E poi restiamo sempre affezionati alla Regione Sicilia, che ha rimborsato 20 milioni di euro a 15.000 addetti dell'azienda forestale regionale solo per le loro spese di trasferta. 20 milioni di euro per le spese di trasferta. La cifra è talmente elevata che si è svegliata anche l'Europa, a cui la Sicilia si era rivolta per farsi finanziare almeno una parte dei salari. E l'Europa ha detto: non siamo disponibili a darvi i soldi se non tagliate la spesa per i rimborsi chilometrici. 20 milioni di euro di rimborsi. Il sospetto è che i forestali siciliani, già tantissimi, voi sapete che i calabresi sono il doppio di tutti i forestali in Canada, no? È che il Canada non ha foreste, quindi ha meno forestali. Non scherzano neanche i forestali siciliani. Il sospetto, dicevo, è che molte volte vengono inviati in luoghi lontani dalla propria sede al solo scopo di giustificare il bonus in busta paga e il rimborso chilometrico. Tra l'altro sono 15.000 dipendenti assunti come forestali in Sicilia, ma ce ne sono altri 26.000 per l'antincendio. Pensate che in Piemonte, altra regione priva di foreste e di boschi, sono 400. Praticamente i forestali piemontesi sono identici ai, anzi un po' di meno, dei forestali che ha il comune di Solarino nel Siracusano. Cioè il comune di Solarino ha più forestali da solo nel Siracusano di tutto il Piemonte. Ma quanti cavolo di alberi ha Solarino? Chiediamo, magari no, ci sono gli elfi, Cappuccetto Rosso, l'Orso Yogi, boh. Ma la vera patata bollente ce l'ha adesso il Comune di Roma, che ha chiuso il bilancio con un rosso di oltre 1.200.000.000 di euro, che va a sommarsi a un debito pregresso, va detto, di altri 10 miliardi. La cosa bellissima è che non esiste un calcolo preciso sul debito del Comune di Roma, si stima in 10 miliardi, dovuto anche alla cattiva gestione delle mitiche società partecipate, che prima verranno ridotte meglio sarà per il paese. Allora l'AMA, che fa rifiuti a Roma, l'ATAC, che è il trasporto pubblico, e l'ACEA, che fanno acqua e energia, hanno complessivamente 31.000 addetti, e pensate che da soli fanno l'85% di tutti gli addetti delle partecipate romane. Ma la cosa interessante è che AMA, ATAC e ACEA hanno più dipendenti di tutto il gruppo Fiat in Italia. L'ATAC ne ha 12.000, 9.500 ne ha invece l'ATM milanese, e ha accumulato in 10 anni perdite per 1.600.000.000. Complimenti. L'AMA ne ha 8.000 di dipendenti, sono quasi tre volte quelli dell'AMSA Milano, che fa lo stesso lavoro, cioè i rifiuti, e ha debiti con le banche per 670 milioni, oltre che essere invischiati in un numero enorme di procedimenti penali. Addirittura in un caso è in causa contro l'ATAC. E poi la CEA, che ha i bilanci in attivo, va detto, ma è riuscita comunque, per non sentirsi da meno rispetto all'AMA e all'ATAC, a raddoppiare negli ultimi anni il proprio debito. È arrivata a 2 miliardi e mezzo di debito la società che gestisce l'acqua e l'energia a Roma. Allora, nessuno dice che vada privatizzata l'acqua e l'energia, però gestite così sono un pozzo senza fondo, che, con assistenze di carattere clientelare, lo sappiamo, per cui così non possono essere gestite. Non volete privatizzarle, commissariatele, fate quello che volete. Comunque oggi al microfono il nostro Alessandro Milan a 24 Mattino, è intervenuto il consigliere comunale radicale Riccardo Maggi, che ha diffuso questi dati e è intervenuto proprio sul caso di ATA che ama. ATA che ama da sole arrivano a quasi a 20.000 dipendenti. Sono due società di fatto decotte, cioè sono entrambe delle società che hanno visto negli ultimi anni una diminuzione forte degli investimenti, quindi ad esempio nel caso di ATAC noi abbiamo una flotta che è in buona parte oltre il ciclo di vita massimo, diciamo, ad esempio dei mezzi, quindi con una qualità anche del servizio che non è assolutamente da capitale europea. Abbiamo un indebitamento nei confronti delle banche molto elevato, abbiamo negli ultimi 10 anni di fatto si è prodotto tra banche, fornitori e ricapitalizzazione un debito di 1.600 milioni. Devo dire che sul ruolo che hanno le società partecipate dai comuni, che sono moltissimi comuni, la fonte principale dell'indebitamento, del rosso, dei comuni stessi, è intervenuto sempre questa mattina con Alessandro Milan, 24 Mattina, anche il sindaco di Verona, Flavio Tosi. Il problema di fondo è una parte molto significativa dei costi in sovrabbondanza, sono costi di personale. Ovvero sia realtà come Roma, come anche in parte Venezia per dire, come le regioni a statuto speciale e qualche altra regione, sono realtà sovrafinanziate che per vari motivi ricevono molto più soldi che le altre e non sempre, ma in molti casi i sovrafinanziamenti, anziché essere usati per infrastrutture, per gli scopi magari per i quali questi sovrafinanziamenti esistono, sono stati usati per fare lo stipendificio, quindi per assumere gente. E quindi siccome lì c'è un problema di esubero di personale vistoso, la soluzione normalmente nel mondo e anche nel privato in Italia sarebbe quella di dismettere una parte di questo personale con tutti gli strumenti del caso, la cassa integrazione, la mobilità, insomma gli ammortizzatori e quant'altro, bisognerebbe fare questo. Per arrivare a far questo si dovrebbe fallire, nel senso che altrimenti succede quello che è sempre successo in Italia con i comuni che vanno in dissesto. Quando vanno in dissesto l'unica cosa che succede è che vengono commissariati, che fra l'altro per Roma politicamente sarebbe una cosa di un certo peso il commissariamento del comune, soprattutto perché vai a commissariare il sindaco Marino. Sì. Tutto sommato lui sta cosa se l'è trovata fra capo e collo. Ma il problema è che se non fallisci non hai gli strumenti per dismettere il personale in eccesso. Allora, se ho ben capito, per riuscire a dismettere personale in eccesso devi fallire. Fallire è difficile, anche perché nei casi più recenti, qualcuno si ricorda il comune di Catania? Beh, 300 milioni il governo di allora li trovò. E da questo non se ne esce. Devo dire che rispetto a quello che raccontiamo da più di un anno, i comuni hanno meno casi viziosi, però non scherzano, e mi riferisco in questo caso soprattutto al comune di Roma. Sulla Sicilia attendiamo notizie dal governatore dell'isola Crocetta, che è intenzionato, lo dico a chi ci sta scrivendo, a diminuire i rimborsi. Però attenzione che su questo sta scricchiolando la maggioranza la stessa di Crocetta alla regione Sicilia, perché poi quando si toccano tutti questi interessi si toccano prebende di carattere elettorale, le lobby si fanno sentire, i gruppi di interesse pure, questo è il punto, è per così che non si riesce ad andare avanti. Ma noi tasiamo, tasi anche tu, anzi no, tu per favore parla, mi riferisco a Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Gianni, buonasera. Buonasera a voi, buon anno a tutti. Di nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia. No, sto sorridendo, Gianni Trovati, perché c'è un ascoltatore che, diciamo, sta compiendo gesti scaramantici non riferibili in radio in una fascia protetta quando ha sentito il tuo nome. Ma non è colpa del nome, non è colpa del termometro se uno ha la febbre. Gianni, ci spieghi perché la Tasi, come tu hai scoperto, avrà questa tendenziale regressività, ossia colpirà di più chi meno ha, chi ha la casa più piccola. È uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare. Il problema, il problema della TASI è quello della mancanza di detrazioni. Noi lo segnaliamo da un bel po' di tempo, ci siamo anche presi qualche, diciamo così, contumeglia nelle polemiche dei mesi passati, ma poi alla fine i nodi vengono al pettine. Il problema è matematico ed è evidente. L'IMU aveva una detrazione standard di 200 euro per tutti, più 50 euro per ogni figlio convivente, detrazione che era stabilita dalla legge statale e che quindi abbatteva fino ad azzerare o a quasi azzerare l'imposta sulle case di valore medio, di valore medio-basso e medio, e caricava invece molto l'imposta sulle case di valore più grande. La TASI invece è piatta, nel senso che di partenza ha un'aliquota di 1 per 1000 che poi può salire a 2,5 per 1000 e che probabilmente con l'emendamento che il governo sta preparando potrà salire almeno al 3 per 1000 per le abitazioni principali per tutti. Dopodiché questo innalzamento di aliquota serve, almeno viene introdotto, per finanziare un po' di detrazioni che però non saranno per tutti come era la regola dell'IMU, ma che saranno a scelta del comune sulle base della anche disponibilità di bilancio del comune, riservate a, che ne so, chi ha famiglia a basso reddito, famiglie con basso ISEE, eccetera eccetera, quindi non per tutti. Ne consegue che chi è in una abitazione principale di valore medio o medio-basso, vuol dire, parliamo di circa il 70% delle case italiane, si troverà a pagare una TASI lorda che è più alta dell'IMU che pagava nel 2012 o che non ha pagato nemmeno nel 2012 perché le detrazioni bastavano ad azzerare l'imposta, e in qualche caso il comune metterà delle detrazioni, in altri casi no, e quindi l'impatto delle detrazioni sarà più limitato rispetto a quello della IMU. Chi ci guadagna invece sono le case di valore alto o molto alto, perché su di loro la detrazione era sempre 200 euro, quindi se l'imposta lorda che tu devi pagare è 210 euro meno 200 euro diventa 10 euro, se è 2000 euro come invece accadeva alle case di valore più alto, meno 200 euro fa 1800, la detrazione neanche si sente. La prova del 9 è nel fatto che l'IMU per più di metà, più del 50% dell'IMU, arrivava da questa minoranza, circa il 10% delle case, che hanno valore fiscale alto o molto alto e che invece ottengono dalla TASI sconti anche molto consistenti. Allora, se ho ben capito, qui ci sono una serie di problemi. Il primo è che mentre con l'IMU la legge era nazionale, quindi i comuni non potevano interpretarla, qui intanto tu hai una possibilità dei comuni di aumentare le detrazioni per soggetti e famiglie economicamente più deboli, ma non è un obbligo, quindi in realtà ci troveremo di fronte a una giungla probabilmente. Il comune più in difficoltà darà meno detrazioni, il comune che può, che è più sensibile, ne darà di più, e già questo crea una sperequazione tra comuni limitrofi, faccio un esempio. E poi il caso che tu citavi, ossia con l'aliquota massima 3,5 per 1000, tu hai una casa da 200.000 euro di valore catastale, avrai un prelievo di 700 euro contro i 1000 del 2012, un appartamento di 40.000 euro di valore catastale, quindi relativamente modesto, avrà un prelievo che sale da 40 a 140 euro. Ora voi direte, da 40 a 140 euro non è tanto, a parte il fatto che sono sempre 100 euro di differenza, ma è il principio. Esatto, ma è il principio che è sbagliato, perché triplicare il valore dell'ex IMU, adesso TASI, per chi ha un appartamento modesto, e invece ridurre il valore della TASI ex IMU per chi ha un appartamento di valore decisamente più elevato. Tra l'altro oggi Confedilizia ha annunciato azioni di protesta contro appunto la TASI, segnalando come la tassazione immobiliare sia cresciuta rispetto al 2011 tra il 159 e il 193% a seconda delle aliquote applicate. Gianni, tu facevi già riferimento a quello che poi sarà, diciamo, il decreto domani del governo. Da quello che ti risulta, Quindi si andrà verso l'aliquota dal 2,5 fino al 3,5 per mille? Allora, da quello che sembra, c'è in ballo un incontro proprio in questi minuti mentre stiamo parlando, un vertice di maggioranza. L'idea è quella di aumentare di mezzo punto i limiti, quindi di portare al 3 per mille massimo l'aliquota dell'abitazione principale e all'11,1 per mille l'aliquota massima della somma di IMU e TASI per quel che riguarda gli altri immobili, le seconde case, i capannoni, eccetera, i negozi, e quindi anche le seconde case e anche i negozi, gli immobili produttivi, eccetera, eccetera, avrebbero un ulteriore aumento d'imposta, e questo fa infuriare naturalmente Confedilizia prima di tutto, ma non solo, insomma, perché la cosa che ci dimentichiamo spesso è che il grande rigonfiamento dell'IMU rispetto all'ICI era determinato da un aumento dei moltiplicatori, il valore, la rendita catastale si moltiplica per 160 e non per 100, che doveva essere provvisorio perché era giustificato, c'era lo spread a 500 e rotti, eccetera. Naturalmente questa provvisorietà dell'aumento lineare di base imponibile si è trasformata ben presto in una condizione stabile e ordinaria. E mi ricordo molto la vicenda delle accise sulla benzina, della guerra da Abissinia, la crisi di Suez, del canale di Suez, e poi il terremoto del Belice, tutte accise che entrano e non escono mai, e questo vale anche appunto per il moltiplicatore della ex ormai IMU. Ultimo capitolo, ma non ultimo, continuiamo a ricevere messaggi di ascoltatori che non hanno ancora capito che cosa dovranno e come pagare, perché anche qui se ho ben capito i comuni possono scegliere se far versare la TASI in due rate semestrali o in un'unica soluzione il 16 giugno, ma insomma la prima scadenza per chi vuole le due rate semestrali quando è? Ma punto? E chi lo sa? No, nel senso che la legge non lo prevede, lascia molta libertà ai comuni, che però naturalmente rischia di trasformarsi in un caos di adempimenti, per cui prima di tutto le categorie, i commercialisti, i sostituti d'imposta che già sono impazziti per l'IMU chiedono di non reimpazzire per la IUC e per la TASI, e quindi chiedono che ci sia una scadenza unica al 16 di giugno come accadeva per l'IMU. È auspicabile che nell'emendamento del governo entri anche questa novità, perché in uno slancio di ottimismo e probabilmente di mancata conoscenza della realtà, la versione originaria della legge di stabilità prevedeva addirittura la prima rata della IUC, quindi della TASI, TARES eccetera, il 16 di gennaio. Fortunatamente questa cosa però era scritta nella Gazzetta Ufficiale. Insomma era una legge varata dal governo. Questa cosa è stata cancellata dal Parlamento, è stata lasciata libertà ai comuni, però davvero, visto che già le regole saranno complicatissime, cambieranno da comune a comune, immaginiamoci i CAF che devono gestire posizioni di migliaia di contribuenti, almeno ci sia una scadenza unica. Sì, questo sarebbe quantomeno auspicabile. Dopodiché ha ragione chi scrive al 349-238-6666 sullo spread, perché poi quando abbiamo iniziato la puntata oggi raccontando di uno spread sotto 200 punti, il cittadino normale è contento, dice sì, ma a me cosa viene in tasca? Ecco, per esempio il moltiplicatore dell'IMU introdotto dal governo Monti per l'emergenza spread, quello sarebbe un segnale, ma mi sembra che si vada in direzione opposta, anche se il ministro per gli affari regionali Delrio oggi ha detto che sull'IMU stanno ragionando, perché è molto importante che ci sia la possibilità di fare detrazioni. Continuate a ragionare e fateci sapere soprattutto la data, visto che ormai ci siamo. Grazie a Gianni Trovati, da Sebastiano Barisoni l'augurio di un buon serata a voi in ascolto. Noi ci risentiamo domani in diretta da Milano per un'altra puntata di Focus Economia dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente. elezioni.